Le piace stare all'opposizione, Speroni? Beh, non è che piace stare all'opposizione. Che dice, c'è dice finalmente siamo all'opposizione. Molti dicono finalmente. Molti le tiriamo fuori le bandiere, finalmente siamo il Parlamento padano. Sì, nel senso che stando all'opposizione hai molta più libertà di espressione, di azione, eccetera. No, quello lo facevamo anche... anche al governo. anche al governo. Questo è buono. Non, avete mai avuto limiti. È una battuta, bravo. Ma insomma, no, ma ci sta. Ci abbiamo sta. Sempre detto quello che pensavamo. L'azione, me la puoi ripetere, l'azione è diversa. No, l'azione è diversa. Aspetta, quando sei in maggioranza, sei vincolato perché, appunto, soprattutto in coalizione, hai siglato un patto, un accordo e devi rispettare gli accordi. Adesso possiamo uno dire che non che ha degli accordi ancora. È molto più libero. Adesso via, secessione, Dio Po'. Ma questo, anche prima, questo non l'abbiamo detto, in altra avete epoca. Avete rispolerato il Parlamento del Nord. A che serve il Parlamento? Ma chi c'era fino ad oggi nel Parlamento del Nord? Era una cosa che ormai non si riuniva più. Ma chi c'era una lì? Sede vuota, totalmente... Beh, allora il CNEL quando si riunisce chi se ne accorge? È un organo costituzionale. Il fatto che... No, avuto il Parlamento del Nord, abbia... Dio, sul CNEL c'ha ragione lui. Sì, non c'è dubbio. Il fatto però che uno è un organo costituzionale, l'altro allora, è una fiction. Noi abbiamo ritenuto fiction. Opportuno, essendo al governo, evitare contrapposizioni tra il Parlamento nazionale che sosteneva un governo e il Parlamento padano che difende esclusivamente gli interessi del Nord. Scusi, della però Padania. La differenza è che il Parlamento adesso italiano esiste, quello del Nord non esiste proprio in natura, il Parlamento del allora, Nord. Allora, se lo vogliamo come Parlamento riconosciuto internazionalmente dalla Costituzione, no, però... Possiamo benissimo fare un'assemblea e chiamarla come ci pare ma piace. Certo.